Mix 24, i gialli della storia. Poco più di 10 minuti fa è stato assassinato il sostituto procuratore Vittorio Corsi. Il suo corpo è ancora tragicamente ripiegato sul volante della 125 con la quale stava andando al suo ufficio. Sensi di colpa non ce n'ho purtroppo, però senso di responsabilità e rammarico quanti ne vuole. I volantini gettati nell'auto portano una intestazione precisa: Movimento Politico Ordine Nuovo. Un nuovo efferato crimine di chiara marca fascista. Il 10 luglio del 76 Pierluigi Concutelli uccide a Roma il sostituto procuratore Vittorio Occorsio. Occorsio è il giudice che a Roma indaga sul terrorismo nero e si è occupato di Piazza Fontana, del cosiddetto piano solo della P2. E grazie alle sue indagini è stato sciolto il gruppo neofascista Ordine Nuovo, il cui capo militare è appunto Pierluigi Concutelli. Quindi questa è la storia di una vendetta, la storia di un giudice e del suo assassino, in un tempo di violenza e di odio. Noi oggi a Mix24 la racconteremo con le testimonianze dello stesso Concutelli, di Paolo Signorelli, ex attivista di Ordine Nuovo, e del giornalista Roberto Martinelli e il magistrato Ferdinando Imposimato. Pierluigi Concutelli inizia a fare politica a Roma da ragazzino. È ancora un attivista come tanti. In poco più di 15 anni diventerà uno dei terroristi più ricercati del paese. Mio nonno fascista, diciamo, non diceva mai, non proclamava mai le sue idee, non si dichiarava mai nostalgico, però era un tipo che con poche frasi lapidarie mascava in testa un buco, evidentemente. È a Roma che Concutelli, giovanissimo, entra in contatto con Ordine Nuovo, il movimento intorno a cui si sta riunendo tutta la destra radicale neofascista. Per ora Concutelli è un semplice simpatizzante. Nessuno può immaginare che nel giro di pochi anni sarà proprio lui a guidare l'ala militare dell'organizzazione. Era un clima di guerra civile, un clima di morti da vendicare, di promesse non mantenute, di promesse da mantenere. E questo era fuorviante, perlomeno per menti giovani. Un clima di morti da vendicare, un clima pesantissimo. Ma che cosa è Ordine Nuovo? Che cosa sono queste nuove sigle dell'estremismo di destra che fanno la loro comparsa in questi anni e che aggregano così tanti giovani? 1956. Pino Rauti, insieme ad altri camerati, tra cui Clemente Graziani, fonda il Centro Studi Ordine Nuovo. Poco dopo vi aderisce anche Paolo Signorelli. Ordine Nuovo nasce come giornale, nasce come rivista, prima ancora che come gruppo organizzato. Erano in forte contestazione nei confronti del movimento sociale italiano, proprio per quella che era la posizione non accettata e inaccettabile di forza di sostegno del potere e del potere democristiano in particolar modo. L'ideologia del nuovo movimento non fa mistero di rifarsi come modello politico al fascismo della Repubblica di Salò e al nazismo. La nuova destra radicale lancia la sua sfida allo Stato e ai suoi uomini, e Vittorio Occorsio è uno di loro. Siamo alla metà degli anni 60, Occorsio si trova a gestire un caso molto delicato. Maggio 1967. Il settimanale L'Espresso denuncia in prima pagina i presunti piani per un colpo di Stato in Italia. Secondo il dossier, nell'estate del 1964, a seguito della crisi del governo Moro, alte cariche dello Stato, tra cui il generale dei Carabinieri De Lorenzo e il presidente della Repubblica Antonio Segni, avrebbero predisposto un piano segreto di emergenza per l'ordine pubblico. Lo scoop dell'Espresso provoca un terremoto istituzionale che ben presto approda nelle aule di giustizia. Vittorio Occorsio sosteneva l'accusa contro Eugenio Scalfari e Lino Iannuzzi, querelati dal generale De Lorenzo, per aver pubblicato quel famoso articolo Colpo di Stato. 11 aprile 1967 si apre a Roma il processo contro Lino Iannuzzi ed Eugenio Scalfari. Il pubblico ministero Vittorio Occorsio capisce subito che il suo lavoro non sarà facile. Il governo, presieduto da Moro, infatti, ha riempito di omissis i documenti che la procura gli ha richiesto. Occorsio seguì tutti i giorni, tutte le udienze, il suo processo, e alla fine si convinse della innocenza dei giornalisti. 23 dicembre 1967. Vittorio Corsio chiede l'assoluzione per Scalfari e Iannuzzi. Secondo il pubblico ministero, le rivelazioni dell'Espresso sono vere. La corte, tuttavia, dà ragione al generale De Lorenzo e condanna i due giornalisti. Per la procura di Roma il caso è chiuso. Alle stesse conclusioni arriverà anche la commissione parlamentare d'inchiesta, che scagionerà completamente il generale De Lorenzo, rilevando l'insussistenza di prove o indizi tali da poter dimostrare che nel 1964 si sia tentato o ipotizzato un colpo di Stato. Ma torniamo allora a Pierluigi Concutelli. Nel 1966 la sua famiglia si trasferisce in Sicilia. Concutelli è un giovane estremista che muove i primi passi nella destra, ma per lui il passo successivo è a mano armata. 24 ottobre 1969, Pierluigi Concutelli viene arrestato a Bello Lampo, nei pressi di Palermo, mentre si esercita con delle armi insieme ad altri camerati. In Sicilia c'era la legge antimafia, quindi il porto alla detenzione, che allora erano reati minimi, in Sicilia erano puniti molto gravemente. Concutelli viene condannato a 14 mesi di reclusione. Per lui si aprono per la prima volta le porte del carcere. A Roma, nel frattempo, Ordine Nuovo vive la sua prima grande frattura. Una parte dei militanti sceglie la via politica e rientra nell'MSI. Il movimento viene sciolto, ma per poco. L'ala dura e pura, infatti, vuole traghettare Ordine Nuovo negli anni 70. Ci fu un dibattito molto intenso, anche duro. Ci fu la componente che faceva capo a Clemente Graziani e a Elio Massagrande, che rifiutarono il rientro nel movimento sociale e diedero vita al movimento politico Ordine Nuovo. Per una parte di Ordine Nuovo, dunque, non c'è più spazio per nessuna mediazione. E del resto tutto sta per cambiare per la destra, per l'Italia e anche per Vittorio Occorsio. È il pomeriggio di venerdì 12 dicembre del 69, a Roma scoppiano due bombe in pieno centro, a Milano è la strage di Piazza Fontana. In quel pomeriggio terribile l'ultima bomba in ordine di tempo scoppia a Roma. Anche le indagini su Piazza Fontana dunque spettano al magistrato di turno nella capitale, e quel magistrato è Vittorio Occorsio. A Occorsio arrivano le prime informative dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, un ufficio molto discusso e molto attivo. Quelle informative sono informative chiarissime. Dietro le bombe di Milano e di Roma c'è la mano degli anarchici. Il 15 dicembre a Milano viene arrestato l'anarchico Pietro Valpreda, a inchiodarlo è la testimonianza di un tassista, Cornelio Rolandi, che dice di averlo lasciato in Piazza Fontana pochi minuti prima della strage. Il giorno dopo Occorsio fa arrivare entrambi a Roma per un riconoscimento formale, ma quel riconoscimento diventerà un vero e proprio caso politico. Siamo stati schierati nella stanza e di fronte avevamo il pubblico ministero che... E poi ho saputo che si chiamava Occorsio. E a un certo punto è entrato dentro, fa fatto entrare il test, è entrato questo taxista, ha deciso, fallo così, fa, e lui. Io ho fatto mandare, ma m'ha mai guardato bene? E lui è rimasto un po' lì, fa, beh, se non è lui, chi gliene ho? E allora l'avvocato Calvi è intervenuto, fa, mettiamo verbale quello che dice, cioè, se, il qui, test. Se non è lui, qui non c'è. Qui non c'è. Valpreda sostiene che Occorsio fece finta di nulla e non verbalizzò questa seconda affermazione di Rolandi e liquidò, diciamo, il confronto. Pietro Valpreda, che nel 1979 verrà prosciolto da ogni coinvolgimento nella strage, denuncerà per anni le modalità con cui si è svolto questo riconoscimento, per il fatto di essere stato messo a confronto con altre quattro persone, tutte però vestite in giacca e cravatta. In realtà però Occorsio sa perfettamente che l'inchiesta è molto, molto più complessa di quello che sembra, e in mezzo a quegli anarchici, infatti, ci sono anche dei neofascisti. Da Pietro Valpreda, le indagini di Occorsio si allargano fino a coinvolgere anche altri personaggi, stavolta legati non all'anarchia, bensì all'estrema destra. Tra questi, Stefano Delle Chiaie, uno dei fondatori di un altro gruppo della destra radicale, Avanguardia Nazionale. Ma anche questa è un'indagine molto complessa. Occorsio deve basarsi sulle informative dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, ma non ha modo di verificarne la reale attendibilità. Nei primi mesi del 1970, Delle Chiaie, indagato per la strage di Piazza Fontana, fugge nella Spagna del regime franchista. A Roma, nel frattempo, le indagini vanno avanti. È il 25 settembre 1970. Occorsio formalizza le sue accuse. Accanto a quelli degli anarchici, compaiono i nomi di Mario Merlino, Roberto Gargamelli, Stefano Delle Chiaie. Occorsio descrive la loro militanza nell'estremismo di destra, in Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, fino al loro ingresso nei circoli anarchici. Per molti giornali e per buona parte dell'opinione pubblica, tuttavia, Pietro Valpreda, indicato da Occorsio come esecutore materiale della strage di Piazza Fontana, è solo un capro espiatorio e quella del 12 dicembre una strage di Stato. L'operato della magistratura viene messo sotto accusa. Un giudice in particolare è nel mirino, Vittorio Occorsio. Vittorio Occorsio è quindi al centro di polemiche feroci, un magistrato che la sinistra considera un nemico. Intanto a Roma, dopo 2 anni di indagine, si sta per aprire il processo per Piazza Fontana. All'inizio delle sue indagini egli aveva subito degli sviamenti, dei depistaggi da parte dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, da parte di funzionari che sono stati incriminati per depistaggio. Quando Vittorio Occorsio si è accorto che la pista vera era la pista delle versioni nere della strage di fascista eversiva legata al potere politico, legata ai servizi segreti, a una parte del potere politico democristiano, allora lo hanno cominciato ad isolare. Occorsio sul banco dell'accusa e Valpreda sul banco degli imputati, uscì dalla bocca di Valpreda la parola boia, e definì boia il buon Occorsio, un epiteto, un insulto, e costò poi a Valpreda 8 mesi di reclusione per vilipendio della magistratura. Dopo poche udienze il processo per Piazza Fontana viene spostato a Milano, dove i magistrati hanno imboccato la pista nera. Occorsio dunque deve abbandonare le indagini su quella strage, ma non quelle sulle versioni nera e su Ordine Nuovo. 31 marzo 1971. Vittorio Occorsio spicca mandato di cattura contro Clemente Graziani e altri appartenenti al movimento politico Ordine Nuovo. A Palazzo di Giustizia il clima è sempre più pesante. 6 giugno 1973. Dopo 2 anni di indagini, inizia a Roma il processo contro Ordine Nuovo, accusato di ricostituzione del disciolto partito fascista. Il pubblico ministero Vittorio Occorsio è di nuovo nell'occhio del ciclone. Da una parte i giornali, con il suo nome di nuovo in prima pagina, dall'altra le tensioni a Palazzo di Giustizia e anche le prime minacce. 21 novembre 1973. Dopo 5 mesi di udienze, arriva la sentenza al processo contro Ordine Nuovo. Vengono condannati 30 ordinovisti, tra cui Clemente Graziani, Salvatore Francia, Elio Massagrande. 2 giorni dopo, il 23 novembre 1973, il Ministero dell'Interno scioglie per decreto il movimento politico Ordine Nuovo. I gruppi extraparlamentari di destra non la prendono bene. La mia reazione fu di sdegno, ma non fu soltanto la mia reazione di sdegno. La reazione di chi si trovava comunque schierato su posizioni antisistema, anche perché uno scioglimento di questo tipo era oltretutto irrituale, perché non c'era stata una sentenza definitiva. E questo ci portò purtroppo alla violenza. Bisogna fare qualche cosa per fermarli. Noi siamo questo, non siamo quello che dicono loro. Prendiamo le distanze dal movimento sociale, dalla DC, dai santi, dalla bandiera, da tutto, dalle istituzioni. Signore, si spara. Si diceva Vittorio Occorsio boia, morte a Vittorio Occorsio. Queste scritte sono rimaste sulle mura della città di Roma per giorni e per mesi e nessuno le ha cancellate. Per Vittorio Occorsio ormai il clima si è fatto pesantissimo. La procura di Roma decide di metterlo sotto scorta. Abbiamo avuto un poliziotto che era proprio in macchina con noi. In quella fase ho sentito più presente una situazione pericolosa, di rischio. Ma nonostante i processi e le condanne, Ordine Nuovo sopravvive, anche se illegalmente continua ad attirare nuovi militanti. Tra loro, proprio Pierluigi Concutelli. 1973. Concutelli inizia ufficialmente la sua carriera all'interno di Ordine Nuovo. Nel giro di un anno diventerà il responsabile militare dell'organizzazione. In quegli stessi mesi, nel febbraio 1975, la polizia di Madrid compra da una ditta americana una partita di armi, tra cui un mitra Ingram con numero di serie 22981. Poche settimane più tardi, quel mitra arriverà nel covo di Avanguardia Nazionale a Madrid. Due settimane più tardi, Concutelli partecipa insieme ad altri estremisti di destra al sequestro del banchiere pugliese Luigi Mariano, liberato nel giro di poche settimane dopo il pagamento di un riscatto di 280 milioni di lire. Al sequestro Mariano partecipa anche Luigi Martinesi, segretario federale dell'MSI a Brindisi. Sarà proprio lui, due anni dopo, a rivelare il movente di quel sequestro: il finanziamento di un gruppo di eversione di destra con base a Roma. Dopo il sequestro Mariano, Concutelli torna a Roma. Nel settembre 1975 partecipa ad una riunione in un casolare ad Albano, alle porte di Roma. L'intendimento era quello di fornire una copertura legale agli ordinovisti. E siccome Avanguardia Nazionale era una organizzazione invece ancora legalmente esistente, si cercò di fare in modo di far entrare in Avanguardia Nazionale i militanti di Ordine Nuovo. Le due organizzazioni si sono fuse. Pochi giorni dopo, la procura di Palermo spicca mandato di cattura contro Concutelli per il sequestro Mariano. Concutelli diventa latitante e si rifugia in Spagna sotto la protezione di Delle Chiaie e Avanguardia Nazionale. Intanto a Roma Vittorio Occorsio comincia ad occuparsi di sequestri. Autunno 1975. Occorsio inizia ad indagare su una serie di sequestri avvenuti a Roma nell'estate di quell'anno. Tra gli altri, i rapimenti di Gianni Bulgari, noto gioielliere romano, del figlio del finanziere Umberto Ortolani, e di Alfredo Danesi, industriale del caffè. Occorsio nota subito un particolare inquietante. Ortolani e il padre di Danesi hanno qualcosa in comune. Sono entrambi iscritti alla massoneria, e in particolare ad una loggia segreta ancora sconosciuta, la Propaganda 2, anche nota come P2 di Licio Gelli. L'ipotesi su cui Occorsio sta indagando è clamorosa. Quei sequestri, infatti, sarebbero maturati all'interno degli ambienti della massoneria con lo scopo finale di finanziare un gruppo di eversione di destra in Italia e sarebbero stati eseguiti con l'appoggio del più potente clan malavitoso che opera in quell'epoca a Roma, la Banda dei Marsigliesi. Il 30 marzo 1976 Occorsio fa arrestare Albert Bergamelli, uno dei capi della Banda dei Marsigliesi. Insieme a lui viene arrestato anche Gian Antonio Minghelli, segretario della loggia massonica P2 e braccio destro di Licio Gelli. Minghelli verrà prosciolto da ogni accusa. Con la morte di Occorsio, le indagini che collegano l'eversione nera, la criminalità organizzata e la massoneria deviata si interromperanno. Ci vorranno ancora 6 anni perché esploda lo scandalo della P2. Ma intanto Ordine Nuovo ha emesso la sua sentenza di morte. E venerdì 9 luglio del 76 per la famiglia Occorsio sembra una giornata come tutte le altre. Stavo ancora non dormiveglia, ero ancora chiuso in camera e sentii sbattersi la porta, è uscito mio padre. E dopo pochissimi minuti sentì le raffiche di mitra. Questa mattina alle 8.50 siamo in via Giuba, appena dopo l'incrocio con via Mogadiscio a Roma. Qui poco più di 10 minuti fa è stato assassinato il sostituto procuratore Vittorio Occorsio. Poi sono sceso, sconcerto, grida e quant'altro immaginabile. Il suo corpo è ancora tragicamente ripiegato sul volante della 125 con la quale stava andando al suo ufficio. Mio figlio stava seduto sul portone con la testa fra le mani. Ci siamo abbracciati stretti e siamo su a casa noi due soli, quasi senza parlare. I volantini gettati nell'auto, la polizia ne ritroverà 7, portano una intestazione precisa: Movimento Politico Ordine Nuovo, sotto il simbolo bipenne un sottotitolo. La giustizia borghese si ferma all'ergastolo, la giustizia rivoluzionaria va oltre. E la mamma di questa amica mi ha chiamato, mi ha detto che mio padre stava molto male e che saremmo dovuti tornare di corsa a Roma. E così è stato. Pochi metri prima di casa lei ha dovuto dirmi la verità e mi aveva detto che c'era stato un attentato e che avevano sparato a mio padre. Chiesi soltanto se era morto o meno e non mi diedero una risposta. Feci le scale rapidissimamente e arrivata su vidi il salotto pieno di persone, abbracciai mia madre, mio fratello e miei nonni, quindi non, Non ci fu più niente da dire, era chiaro cosa era successo a quel punto. Vittorio Corso viene ucciso un mese dopo che le Brigate Rosse a Genova hanno ucciso il procuratore capo Francesco Coco e la sua scorta. Occorso e Coco sono i primi due magistrati vittime del terrorismo in Italia. Le indagini sul delitto Occorso, prima assegnate a Roma al giudice Romano Vitalone, passano poi alla Procura di Firenze ai sostituti Pappalardo e Vigna. Sul luogo dove avvenne l'omicidio, via del Giuba, all'angolo, erano stati visti nei giorni precedenti due persone fare un appostamento e queste persone avevano una moto Guzzi 750 rossa. A Roma, il 22 ottobre 1976, in un covo di estremisti di destra, insieme ad armi e munizioni, viene ritrovata proprio una moto Guzzi. Ma questa moto è nera. Poche ore dopo, il magistrato si reca nell'officina della moto Guzzi a Roma. Mi rivolsi al capo garagista e gli chiesi, per caso, a fare il tagliando per questa moto è venuto solo l'intestatario, che si chiamava Damis, oppure qualcun altro? Questo gentilmente guardò e disse che era venuto anche un certo Ferro Gianfranco. Una quindicina di giorni dopo l'omicidio aveva consegnato una moto Guzzi rossa 750, prendendone in cambio un'altra. È la svolta. Gli inquirenti hanno rintracciato il nome del proprietario della moto Guzzi rossa vista sul luogo del delitto. Vigna informa subito la questura. A mezzanotte i poliziotti arrestano Gianfranco Ferro. Ferro chiama in causa come esecutore materiale un altro estremista di destra, Pierluigi Concutelli. L'arresto di Concutelli non chiude le indagini. Sono da scoprire eventuali mandanti, ma le indagini e i processi che si susseguono porteranno solo ad assoluzioni definitive. Per la giustizia italiana l'omicidio Occorso non ha mandanti. Pierluigi Concutelli è stato condannato all'ergastolo come esecutore materiale dell'omicidio Occorso. Il 13 aprile 1981 ha ucciso in carcere Ermanno Buzzi, condannato in primo grado per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Il 10 agosto 1982, sempre in carcere, ha ucciso Carmine Palladino, accusato di essere un confidente della polizia. Il 26 giugno 2000 è stato ammesso al lavoro esterno fuori dal carcere.